Speciale Europei 2008. Buongiorno da Dario Ricci. Prima il confronto con la squadra, poi il duello con la stampa. Giornata difficile per il CT Roberto Donadoni, quella successiva al KO azzurro contro l'Olanda. E a chi rievoca il fantasma di Marcello Lippi, Donadoni risponde così. Il fatto di ridarci Lippi è una cosa che onestamente mi aspettavo. Non è che mi aspettavo oggi rose e viole, e quindi era una cosa che mi aspettavo. Non è che sono così sciocco da non aspettarmi cose di questo tipo. Poi Donadoni ha spiegato l'esclusione di De Rossi. Se poi secondo voi io devo far giocare sempre un giocatore, questo è un discorso vostro, no? Non è che io posso, perché voi mi consigliate di far giocare un giocatore e farlo per forza, non funziona così. Io faccio delle valutazioni. De Rossi secondo me è un grande giocatore, un ottimo giocatore, ha giocato Pirlo, Ambrosini e Gattuso, ma questo non toglie niente al valore di De Rossi, tantomeno al valore di questi altri tre. Il CT però ammette che con la Romania potrebbero esserci novità in squadra. Che ci si possa pensare di cambiare qualche giocatore sta nell'ordine delle idee, della logica, insomma. Adesso dobbiamo valutare un po' anche dal punto di vista fisico, valuteremo meglio e di conseguenza faremo anche le giuste considerazioni. Un comunicato ufficiale dell'UEFA ha intanto chiarito che il gol di Van Nistelrooy non era in fuorigioco. Il presidente degli arbitri italiani, Cesare Gussoni, spiega il perché al microfono di Flavio Suardi. In base alle disposizioni date a suo tempo dall'UEFA, quello non può altro che essere non fuori gioco, cioè l'uomo deve essere considerato assolutamente in gioco. L'assistente giustamente ha valutato che il Panucci, uscito perché ha ricevuto un tinta dal portiere, tenesse in gioco l'attaccante. Riflettori ora puntati sulla Romania, nostra avversaria venerdì. L'interista Chivu, sorpreso dal KO azzurro contro gli olandesi. No, non mi aspettavo, pensavo che iniziasse bene, perché penso che è una delle favorite, rimane ancora anche dopo questa sconfitta, però si fa un po' dura, devono vincere per forza la partita contro di noi e quella contro la Francia, che non se la fa. Ho visto a tratti un po' la partita e l'Olanda ha giocato molto bene, non è stato facile per nessuno giocare ieri sera. Ieri intanto Euro 2008 ha trovato un altro grande protagonista nerazzurro. È Zlatan Ibrahimovic che con un gran diagonale ha aperto il 2-0 con cui la Svezia ha superato la Grecia. Sempre dal gruppo D arriva anche il capocannoniere del torneo. È David Villa, autore di una tripletta nel 4-1 con cui la Spagna ha travolto la Russia. E oggi seconda giornata per il gruppo A. Alle 18 a Ginevra si sfidano Portogallo e Repubblica Ceca, entrambe con 3 punti. Alle 20:45 a Basilea, Svizzera-Turchia, ancora ferme a quota 0. Seguiremo la giornata di Euro 2008 con interviste, collegamenti e approfondimenti. Vi ricordo in particolare alle 14 a Tempo di Sport, speciale europei, e alle 22:30 l'appuntamento serale con lo speciale Euro 2008. Buona giornata da Dario Ricci.